Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Di Dario Ricci. Par via di Ociamandur, lanciaman al cinese, curi il Gir d'Italia, buono di gran pretese, mie la meninfa, a scontentum ad poc, massacati su un tuoi premi, a glappò cambia il salò. Giro d'Italia 1946, primo Gino Bartali, 40° e ultimo Luigi Malabrocca, 4 ore, 9 minuti e 44 secondi. Alla media di 33,95 all'ora, più o meno 140 km di distacco. E poi Giro d'Italia 1947, primo Fausto Coppi, 50° e ultimo, come dubitarne, ancora lui, Luigi Malabrocca, a 5 ore, 52 minuti e 20 secondi, alla media di 33,15 all'ora, quasi 200 km di distacco. Ebbene, in questi giorni in cui il Giro d'Italia pedala all'inseguimento del suo sacro graal, della maglia rosa, che è sogno di tanti, sogno di tutti e obiettivo tangibile di pochi, vogliamo ricordare che invece il più lontano possibile fu da quel rosa che indica vittoria, comando e trionfo, e che per scelta spesso, per scelta, non per incapacità, inseguì invece la maglia nera. Parliamo oggi appunto delle grandi maglie nere della storia del Giro d'Italia e lo facciamo ritrovando qui al microfono di Olimpia non solo e non tanto un collega, ma un vero e proprio amico dello sport e di Olimpia e di Radio 24, Dario Ceccarelli, ben ritrovato e grazie per essere oggi ospite della Città dello Sport. Grazie Dario, per me è un onore essere qua, perché è sempre così un posto dove lo sport si incrocia con la vita, con le passioni, e quindi vengo sempre volentieri. E poi si parla di sport in un modo sano, ecco, mi piace per questo, perché non c'è la tensione del tifo, non c'è, si parla serenamente, e in questo caso parlare della maglia nera è un'occasione in più, perché mai come in questo caso gli ultimi saranno i primi, no? Assolutamente. Assolutamente, almeno nel nostro ricordo. Tra l'altro, tu quanti Giri d'Italia, quanti Tour de France hai nel tuo palmarès? Perché non li hai vinti, ma li hai seguiti da giornalista. Allora, dall'inizio alla fine 13, cioè il mio primo Giro d'Italia fu nell'84, quello famosissimo di Moser Fignon, quello che ci fu la famosa cronometro Di Verona. Di Verona, che Moser mise le ali strapazzò in un modo incredibile Fignon. E poi ne ho fatti 13, e poi ne ho fatti alcuni a pezzi, perché poi dopo avevo lasciato il ciclismo militante ed ero inviato più generale, quindi ogni tanto mi mandavano a seguire le parti salienti del giro, come quando ci fu la vicenda di Pantani, quando fu Madonna dei Campigli sospeso dal giro, e lì in quei casi lo sport si mischiava con la cronaca e con la vita, un paese intero che all'epoca hanno fermato Pantani voleva dire che il titolo era in prima pagina, ma della prima pagina, non dello sport e non della Gazzetta dello Sport, esatto, ma di tutti i giornali generalisti. Oggi parliamo invece della maglia nera, che è un ricordo, immagino, sfuggevole per molti, addirittura tutto da costruire per molti giovani che non sanno neppure che c'era questa epopea, perché per alcuni Giri d'Italia, come abbiamo un po' sommariamente ricordato, veniva assegnato questo riconoscimento all'ultimo corridore in classifica, e c'erano alcuni di questi campioni, perché poi quando volevano sapevano anche vincere, come ricorderemo insieme a te Dario, ecco, c'erano alcuni di questi corridori nel gruppo che si impegnavano davvero per arrivare ultimi. Di chi parliamo? Sì, non era facile, perché arrivare ultimo a un grande giro non è facile, perché dicevano i tecnici che ci vuole una precisione chirurgica, no? Perché il problema è che devi essere ultimo ma non fuori tempo massimo, e quindi se devi stare in quell'intervallo di tempo tra l'ultimo e il tempo fuori tempo massimo. Ma la Brocca ad esempio una volta perse l'ultima volta la maglia nera, proprio perché arrivò, anche lì ci fu un equivoco, non è che arrivò fuori tempo tempo massimo. Fu inserito, era nel 49, era il famoso duello con Sante Carollo, e lui si nascose in un fienile, no, perché, per cercare di arrivare ultimo, no? Perché questo Carollo era un rivale veramente agguerrito, no? Si nascondeva, no? Si nascondeva, ma uno si spiava l'altro. Carollo era proprio immobile, veniva definito un soprammobile perché era oggettivamente lento, ecco. Tanto era giovane, aveva 25 anni, andò al giro del 49 al posto di Magni, che si era ammalato, Lorenzo Magni, esatto, e fu mandato all'ultimo momento un vicentino che era tra l'altro muratore, era uno, all'epoca si facevano 2-3 lavori assieme, non è come adesso che si è super professionisti, e quindi fu mandato un po' allo sbaraglio, e però era talmente lento che divenne un avversario incredibile per anche Malabrocca, e all'ultima tappa lui cercò Malabrocca per rimediare, nella tappa mi sembra Torino-Milano, di nascondersi in un fienile dove poi si fermò, poi andò a bere con alcuni tifosi eccetera eccetera, ma i cronometristi, che si erano un po' stufati di Malabrocca perché tutte le volte le costringeva a stare lì e far sera, a un certo punto sono andati via e hanno segnato gli ultimi Malabrocca tra gli ultimi del gruppo, non l'ultimo un'ora e mezza dopo, e quindi è arrivato col tempo di tutto il gruppo, quindi, e quindi ha perso brigato un sacco di soldi, perché all'epoca essere maglia nera voleva dire guadagnarsi dei bei soldi. E poi c'erano i tifosi, perché la maglia nera attirava sicuramente le simpatie ma anche il tifo, tanto Coppi e Bartali dividevano l'Italia per la maglia rosa e per la filosofia di interpretare la corsa, la vita eccetera eccetera, quanto certo. Carollo e Malabrocca facevano altrettanto, no? Sì, perché pensiamo un po' all'Italia di quel periodo, no? L'Italia del dopoguerra era un'Italia che usciva dalle macerie, dalla povertà, per cui aveva bisogno di due eroi positivi, di due grandi eroi, quindi Bartali e Coppi, in quale si immedesimavano anche un po' le sorti di un paese che stava risalendo la china, e poi però avevano bisogno di immedesimarsi anche nei disgraziati, che infatti a un certo punto aspettavano che si sfilasse tutta la carovana dopo Bartali e Coppi per vedere Malabrocca e Carollo, perché da povero a povero si rivedevano, no? Ecco un altro disgraziato, ecco un altro come noi che cerca di mettere insieme il pasto con la cena, e quindi loro erano un po' il simbolo dell'italiano povero, medio, ecco, che così. È straordinario come questo paese cerchi sempre di attenuare gli eccessi, no? Sì. Riusciamo a vivere sempre in una aurea mediocritas, in senso latino, tra gli abissi e le vette. Allora, Coppi e Bartali vengono bilanciati da Malabrocca e Carollo. Sì, era. Poi bisogna avere presente il ciclismo, cos'era all'epoca. Era lo sport in assoluto più seguito, e divideva veramente un paese e lo univa allo stesso tempo. Questa era la bellezza, perché si dividevano ma nello stesso tempo poi si ritrovavano tutti assieme sulle strade, e in quel periodo svolse una funzione eccezionale il ciclismo, proprio per fare coesistere un paese che era molto lacerato. Perfino Magni, che era il terzo uomo, un po' più politicizzato anche perché era un po', sì, era di destra, era stato salvato. Ci sono anche episodi oscuri relativi alla sua biografia. Fu salvato da Martini, da Alfredo, sì, Martini nel processo eccetera eccetera, però anche Magni alla fine diventava, in questa grande famiglia del ciclismo, del Giro d'Italia, della carovana, uno di noi, e in questo fu il ciclismo una specie di ricostituente per un paese che aveva bisogno anche di serenità e di pace. Eh sì, immaginate questa carovana rosa che attraversa l'Italia, magari da sud a nord, è come fosse una cicatrice che chilometro dopo chilometro va veramente a richiudersi e a rimarginarsi, no? A riannodare le varie anime dell'Italia. Sì. Era il ciclismo pure delle trattorie, si andava in fuga perché poi infatti, i parenti ti aspettavano per bersi un bicchiere di vino e farsi due pappardelle. No? Infatti sì, ecco, e qui si arriva al perché a un certo punto Malabrocca ha deciso di inventarsi la maglia nera, perché prima come nasce questa maglia nera? La cosa nasce così, che lui capì a un certo punto che non era nato per essere primo. Tra l'altro c'è un episodio curioso: nel 1938, in una gara nell'Alessandrino, Malabrocca e Coppi, che si conoscono, si vedono alla partenza. Malabrocca guarda Coppi e dice: ma guarda questo qua, è magro, con le spalle cadenti, gli occhi febbricitanti, ma questo se arriva alla fine della corsa io vinco il Giro d'Italia. E poi Malabrocca disse: non sono mai stato un buon profeta, perché effettivamente così. E capì che Coppi era Coppi e lui era Malabrocca, e quindi fece una scelta: se non posso essere primo sarò ultimo. Perché? Perché una volta era arrivato alla fine del gruppo eccetera, e si era accorto che suscitava simpatia e che la gente andava lì: ah, sei l'ultimo, gli dava un pollo, gli dava, uno gli ha dato un agnello, un altro del salame, delle bottiglie di vino. Allora questo ha detto: ah, però se questo tanto mi dà tanto, mi conviene investire su questo ruolo della maglia nera. E allora a quel punto da lì nacque la vicenda della maglia nera, che tra l'altro portò anche dei bei soldi, perché nel 1946 guadagnò 60.000 lire, che era quanto guadagnava un italiano in media in un anno in quel periodo, e nel 1947 280.000 lire. E qui, com'è? Oltre a tutte le gomme, gli davano i salami, l'olio, la spesa eccetera, e quindi diventava una cosa su cui si poteva impegnare. Infatti Malabrocca si è impegnato tantissimo. Una volta vinse però una gara importante, la Parigi-Nantes, di 460 km, una corsa pazzesca. Sì. Tra l'altro a Ferragosto, quindi non è vero che solo adesso si corre. Si corre d'estate. E l'equipe ironizzò dicendo: una lanterna in Francia, una lanterna italiana in Francia illumina la Francia, per fare dell'ironia che la maglia nera italiana aveva vinto in Francia. Certo, aveva portato un po' di luce. Beh, insomma, oggi ci avrebbero impiegato diverse agenzie di marketing e comunicazione a inventarsi quello che invece lui Malabrocca e Sante Carollo si inventarono ai tempi. Hai detto un nome particolare, Alessandria. Allora senti, prendiamoci qualche istante di pausa, poi proprio da Alessandria ripartiamo, perché questa leggenda che noi stiamo rivivendo si può visitare in un luogo davvero speciale nella storia del ciclismo. Allora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Oli. Olimpia. Sguardo sui raggi, che la salita sembra meno salita. Così pensava Malabrocca guardando l'asfalto asciugato dal sole di maggio. Ultimi per scelta, Luigi Malabrocca e Sante Carollo. Riviviamo oggi a Olimpia uno dei miti più belli, secondo me, dello sport e del ciclismo, nel momento in cui il Giro d'Italia attraversa il nostro paese, il mito della maglia nera, sì, di quei ciclisti che non si risparmiavano colpi su colpi, metaforicamente, scherzi, facezie, anche imbrogli, quasi agguati a volte, pur di cercare. Dario Ceccarelli qui a fianco a me non trattiene neppure l'entusiasmo per parlarci della maglia nera, insomma, sì, di questi ciclisti che in qualche modo cercavano di sfidarsi fino all'ultima pedalata più lenta possibile per conquistare il simbolo dell'ultimo in classifica al Giro d'Italia. L'avete sentito, Dario Ceccarelli qui a fianco a me, ben ritrovato. Grazie Dario, grazie per ospitarmi a questa bellissima trasmissione. Troppo buono. Ma senti, ci eravamo lasciati pronunciando un nome, un luogo molto particolare: Alessandria. Che ruolo ha questa città, che è una delle capitali del ciclismo italiano, in questa storia? Ma in questa storia Alessandria, va detta una cosa: Alessandria è in Piemonte, e il Piemonte fu un grande crocevia del ciclismo italiano, perché all'inizio secolo le maggiori aziende, fabbriche di biciclette erano tutte nel Piemonte, e i grandi campioni del tempo erano quasi tutti piemontesi. Adesso il Diavolo Rosso, Gerbi, Cuniolo, poi c'è stato Girardengo, c'è una grandissima tradizione. E quindi ad Alessandria, proprio perché c'è questa tradizione che è sempre stata molto sentita, si è avvertita l'esigenza di fare una iniziativa particolare, istituire il Museo della Bicicletta. Di Roberto Livraghi, il direttore, bellissimo, è un museo bellissimo, perché non è un museo, ecco, quando si parla di un museo uno già ha la palpebra che si abbassa un po', no, ecco, è una cosa molto divertente, appassionante, ci sono delle foto bellissime, poi è tutto in digitale, molto anche in digitale, per cui oltre ai manifesti dell'epoca e alle biciclette dell'epoca, ce ne sono tante, ce ne sono alcune bellissime, cioè ci sono delle Maino che del 1920-10 che io le utilizzerei adesso, sono di una modernità fantastica. E poi ci sono quei velocipedi, quelli dell'Ottocento, che per salire, gigante, che ci no? voleva la scala, non so come facevano andare in giro, erano degli oggetti pericolosi, diciamo. E ad Alessandria si è ricostruita tutta la storia del ciclismo italiano, in particolare quello piemontese, in particolare della storia di Coppi, perché ricordiamo che Coppi insomma è nato da quelle parti, a Castellania, dove c'è tra l'altro anche la Castellania Coppi, no? Che ha preso proprio questo nome. Sì, ci sono passato pochi giorni fa, tra l'altro c'è la sua casa che è stata la casa dei genitori, è ristrutturata da Coppi a fine anni 50 e però è rimasta proprio come era negli anni 50, quindi sì, sì, con i mobili dell'epoca, con quell'atmosfera dell'epoca, e poi in questo paesino dove tutto vive per Coppi, perché erano pochissime, adesso erano un centinaio di persone, all'epoca ce n'erano 500-600, però lui era un garzone, era un salumiere, faceva tutt'altro, è diventato... Lui e Bartali in cima alla classifica, abbiamo detto, ma Malabrock e Carollo in fondo, no? Però dicevamo che mentre Carollo era abbastanza scarso, Malabrock, la cui leggenda appunto insieme a quella di Sante Carollo è visitabile in queste settimane al Museo di Alessandria, Malabrock lo era per scelta, perché quando voleva è riuscito anche a piazzare delle belle stoccate in carriera. Guarda, Malabrock, mi sono documentato proprio, ha vinto da quando allievo a fine carriera, che nel 59, 138 corse, quindi adesso un corridore 138 corse non le vince, no, insomma magari non erano tutte importanti, diciamo, però le vincono i campioni, ma anche se vai a Nibali, io non so se ne metti tutte assieme 138 le ha fatte, chiaramente Nibali ha vinto dei grandi giri eccetera, è un paradosso quello che sto facendo, però 138 corse non sono male, oltretutto ce ne sono anche alcune, appunto una la Parigi Nantes di cui che ho citato prima nel 1947, la Coppa Gostoni, due campionati mondiali di ciclocross nel 51 e nel 53, insomma il cinese, come era chiamato Malabrock, perché aveva un taglio di occhi un po' asiatico, allora era chiamato il cinese o anche il Mala oppure Luisin, perché in quel periodo i nomignoli si sprecavano, e quindi il Malabrock era un corridore, non dico di talento, però era un buon corridore. Il suo aveva una lacuna, il recupero, lui lo ha detto spesso, io ero abbastanza forte nelle corse di un giorno, ma in un grande giro dopo 4-5 tappe mi spegnevo, non avevo il recupero, per cui poi mi pigliavo delle cotte pazzesche, e quindi ho capito da lì, racconta Malabrock, che non potevo aspirare a fare Coppi, e poi lui era molto legato a Coppi, per lui racconta Malabrock, ci ricordavi già qualche aneddoto, ma dice di più. Lui dice, io non ho il crocefisso, diceva, sopra il letto, però ho il ritratto di Coppi, perché era quasi un paesano, e poi perché racconta sempre Malabrock che Coppi era una persona di molto generosa, molto buona, era un amico di quasi tutti i corridori, non era superbo, e questo era molto apprezzato. Quindi, l'aspetto umano ancora in quel gruppo, che pure puntava alla vittoria e ai riconoscimenti, però contava davvero parecchio. Ma senti Dario, visto che appunto hai approfondito anche questo tema, ma perché a un certo punto la maglia nera scompare? E la maglia nera scompare perché, intanto perché Malabrocca era un po' il simbolo della maglia nera, cioè già con quel nome, no? Malabrocca, cioè tu pensi già ti dà un'idea di un qualcosa di nero che può succedere. Un personaggio, cioè la gente, i grandi cronisti dell'epoca, Orio Vergani, Dino Buzzati, Montanelli, Fossati, tutti quelli che seguivano il ciclismo, e per loro parlare di Malabrocca era così una boccata d'aria, gli dava sempre il pezzo di colore, e quindi era diventato un personaggio popolare. Prima dei Giri d'Italia lui faceva le conferenze stampa come fosse una star, no? E raccontava, faceva un po' ombra anche agli altri, sì, perfino a quelli, diciamo, non a coppie bata, ma quelli subito vicini al podio, insomma rosicava un po', perché oltretutto guadagnava quasi quanto quelli, per cui insomma non è che tutto questo facesse piacere, però poi gli veniva perdonato. E poi in questa sua vocazione a essere ultimi ci metteva proprio una scienza. Lui era stato definito, che era molto divertente, lo scienziato, il vero scienziato del ritardo controllato. Quindi era come un surplus che però sì, sulle tappe le faceva, cioè non sì, era un pistardo, non era un improvvisatore. Ecco, tanto del surplus si può anche parlare perché si associa al concetto di lentezza, anche sì. Questo è. Però lui non era un improvvisato, lui si è impegnato, ogni anno studiava, quindi arrivava preparato. E quindi 46, 47 e 48, nel 49, che era, doveva essere l'anno dell'apoteosi, cioè una grandissima attesa, ma ormai era dato per vincente, succede questo fatto nuovo, che Magni si ammala e al suo posto viene mandato in fretta e furia questo Sante Carollo vicentino, 25 anni, che era proprio un brocco, no? Nel senso lo dicevamo, che, no? Insomma, era parecchio scarso. Non so scarso. Chi lo aveva definito, anche questo è divertente, un soprammobile perennemente in difficoltà, è di Montanelli, sconvolto da cotte spaventose, ma la brocca non può tener testa a questo mostro all'incontrario. Cioè, diciamo che Carollo era un talento naturale, sì, lui era veramente un brocco, lentezza. È della lentezza, e quindi Malabrocca si trova in difficoltà, improvvisamente un vero rivale, e le tenta un po' tutte, tra l'altro c'erano in ballo molti soldi, molti premi, eccetera eccetera, e le tenta tutte fino a quando arriva all'ultima quello tappa, che dicevamo, che addirittura sta due ore nascosto in un fienile, eccetera eccetera, e poi dopo alla fine non ce la fa e quindi finisce quel giro del 49. Senza di lui la maglia nera perde importanza, perché era il personaggio. Sì. Caro Dario Ciccarelli, intanto, oltre a ringraziarti per essere venuto a trovarci questa domenica, vorrei ringraziarti anche perché ci hai regalato uno splendido elogio della lentezza. In questo mondo che è iperveloce e che pure in questi tempi difficili ha i suoi problemini, ecco, la leggenda di Malabrocca e Carollo che abbiamo rivissuto insieme, credo che ci invita in qualche modo a scalare le marce e a goderci un pochino di quel tempo che non sempre è perso nel frenetico correre delle lancette. Dario Ceccarelli. Grazie Dario. Ecco, proporrei una lega della lentezza. Ecco, questo potrebbe essere spunto per il futuro. Due iscritti ci sono sicuri, aspettiamo gli altri. Intanto grazie per essere stato a Giavolini. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.